Capitolo secondo. Mademoiselle de Forcheville. Non che non amassi ancora Albertine, ma non più ora nello stesso modo degli ultimi tempi. No, nel modo dei tempi più remoti, quando tutto ciò che si riferiva a lei, luoghi e persone, mi ispirava una curiosità dove c'era più fascino che sofferenza. E adesso, in effetti, mi rendevo ben conto che prima di dimenticarla del tutto, prima di giungere all'indifferenza totale, avrei dovuto, come un viaggiatore che torna per la stessa strada al punto da cui è partito, attraversare in senso inverso tutti i sentimenti per i quali ero passato prima d'arrivare al mio grande amore. Ma queste tappe, questi momenti del passato, non sono immobili. Hanno ancora la forza terribile, l'ignoranza felice della speranza che si protendeva allora verso un tempo che è diventato ora il passato, ma al quale un'allucinazione ci fa guardare per un istante, retrospettivamente, come al futuro. Leggevo una sua lettera in cui mi aveva annunciato per sera la sua visita e per un secondo provavo la gioia dell'attesa. Durante quei ritorni lungo la stessa linea da un paese dove non torneremo mai, durante i quali si riconosce il nome, l'aspetto di tutte le stazioni per cui si è già passati all'andata, succede, mentre si è fermi in una di queste, d'avere per un istante l'illusione di ripartire ma nella direzione da cui si proviene, come sarà fatto la prima volta. L'illusione cessa immediatamente, ma per un secondo ci era parso d'essere trasportati di nuovo là. Tale è la crudeltà del ricordo. Eppure, se non si può fare a meno, prima di tornare all'indifferenza da cui si era partiti, di coprire in senso inverso le distanze superate per arrivare all'amore, il tragitto, la linea che seguiamo, non sono necessariamente gli stessi. In comune hanno di non essere diretti, perché l'oblio non avanza più regolarmente dell'amore. Ma le vie che prendono non sono necessariamente le stesse. E in quella che io seguivo al ritorno vi furono, già in prossimità dell'arrivo, quattro tappe che ricordo in modo particolare, probabilmente perché vidi in esse cose che non facevano parte del mio amore per Albertine, o almeno che a questo si collegavano solo nella misura in cui ciò che era già nel nostro animo prima di un grande amore vi si associa, nutrendolo o combattendolo o facendo con esso, per la nostra intelligenza che analizza, contrasto e immagine. La prima di queste tappe cominciò all'inizio dell'inverno, una bella domenica d'ogni santi in cui ero uscito. Mentre mi avvicinavo al Bois, ricordavo con tristezza il ritorno di Albertine quando era venuta da me dopo aver lasciato il Trocadéro, perché era la stessa giornata, ma senza Albertine. Con tristezza, eppure, nonostante tutto, non senza piacere, perché la ripresa in minore, su un tono desolato, dello stesso motivo che aveva riempito la mia giornata d'allora, persino l'assenza di quella telefonata di Françoise, di quell'arrivo di Albertine, non erano di per sé cose negative, ma con la soppressione nel reale di ciò che io ricordavo, aggiungevano alla giornata un che di doloroso e ne facevano qualcosa di più bello di una giornata liscia e semplice, perché ciò che in essa non c'era più, ciò che ne era stato strappato, vi lasciava impresso una sorta di vuoto. Fischiettavo frasi della sonata di Banteuil. Non soffrivo più molto al pensiero che Albertine me l'aveva suonata tante volte, perché quasi tutti i miei ricordi di lei erano entrati in quel secondo stato chimico in cui non sono più causa di ansiosa oppressione al cuore, ma di dolcezza. A tratti, nei passaggi che suonava più di frequente, durante i quali era solita fare una certa riflessione che mi sembrava allora incantevole, mi dicevo povera piccina, ma senza tristezza, aggiungendo solo al passaggio musicale un pregio in più, un pregio in qualche modo storico e curioso come quello che il ritratto di Carlo I di Van Dyck, già così bello di per sé, acquista per il fatto d'essere entrato nelle collezioni nazionali perché Madame du Barry voleva far colpo sul re. Quando la piccola frase, prima di sparire del tutto, si sfece nei suoi diversi elementi, sparpagliata nei quali galleggiò ancora un istante, non fu per me, come per Swann, una messaggera di Albertine che spariva. La piccola frase non aveva destato in me esattamente le stesse associazioni di idee che aveva destate in Swann. Io ero stato sensibile soprattutto all'elaborazione, agli assaggi, alle riprese, al divenire di una frase che si faceva durante la sonata, così come quell'amore si era fatto durante la mia vita. E adesso, sapendo come ogni giorno si portasse via un nuovo elemento del mio amore, prima l'aspetto gelosia, poi qualche altro, tornando insomma poco a poco in un vago ricordo al debole abbrivo iniziale, nella piccola frase sparpagliata era il mio amore che mi sembrava di vedere disgregarsi davanti a me. Nel seguire viali separati di un sottobosco, ricoperti da un prato di giorno in giorno più stento, sentivo ora il ricordo di una passeggiata, quando Albertina era al mio fianco nella vettura, quando era rincasata con me, quando sentivo che avviluppava la mia vita aleggiare attorno a me, nell'incerta bruma dei rami incupiti fra i quali il tramonto faceva brillare, come sospesa nel vuoto, l'orizzontalità rarefatta del fogliame d'oro. Di tanto in tanto, peraltro, trasalivo, come tutti coloro per i quali un'idea fissa dà a ogni donna ferma all'angolo d'un viale la somiglianza, l'identità possibile con quella a cui si pensa. Forse è lei. Ci si volta, la vettura prosegue, non si torna indietro. Non mi accontentavo di vederlo con gli occhi della memoria. Mi interessava, mi commuoveva, come certe pagine puramente descrittive in mezzo alle quali un artista, per renderle più complete, introduce una finzione, un intero romanzo. E quella natura prendeva così il solo fascino di malinconia che potesse giungere sino al mio cuore. Mi parve che la ragione di questo fascino fosse che io amavo sempre Albertine nello stesso modo, mentre la ragione vera era, al contrario, che l'oblio continuava a fare progressi dentro di me, che il ricordo di Albertine era meno crudele, cioè era mutato. Ma per quanto chiaro si creda di vedere nelle proprie impressioni, come io credetti allora di vedere nella ragione della mia malinconia, non si riesce mai a risalire sino al loro significato più riposto. Simili a quei disturbi che il malato racconta al suo medico e che aiutano quest'ultimo a risalire a una causa più profonda, ignorata dal paziente, le nostre impressioni, le nostre idee, non hanno che un valore di sintomi. Poiché la gelosia era tenuta in disparte dall'impressione d'incanto e di dolce tristezza da cui ero invaso, i miei sensi si risvegliavano. Ancora una volta, come quando avevo smesso di vedere Gilbert, prendeva slancio dentro di me l'amore per la donna, sbarazzato d'ogni associazione esclusiva con una certa donna già amata, e fluttuava come quelle essenze che, liberate da distruzioni anteriori, errano in sospeso nell'aria primaverile, chiedendo solo d'unirsi a una nuova creatura. In nessun luogo germogliano tanti fiori, e il loro nome potrebbe ben essere «Non ti scordar di me», come in un cimitero. Guardavo le fanciulle di cui quella bella giornata era innumerabilmente fiorita, come in altri tempi avrei fatto dalla vettura di Madame de Villeparisis, o da quella in cui ero venuto, una bella domenica, assieme ad Albertine. Lo sguardo che posavo su questa o quella fra loro era subitamente doppiato dallo sguardo curioso, furtivo, intraprendente, rispecchiante pensieri inafferrabili che avrebbe gettato loro di nascosto Albertine, e che geminando il mio con ala misteriosa, rapida e bluastra, faceva scorrere per quei viali fino a quel momento così naturali il brivido d'un ignoto di cui il mio desiderio non sarebbe riuscito a rigenerarli se fosse rimasto solo, già che esso non aveva per me nulla di straniero. Altre volte la lettura di un romanzo un po' triste mi riportava bruscamente indietro, perché certi romanzi sono come grandi lutti momentanei. Aboliscono l'abitudine, ci mettono in contatto con la realtà della vita, ma solo per qualche ora, come un incubo, perché le forze dell'abitudine, l'oblio che esse producono, la gaiezza di cui sono portatrici grazie all'impotenza del cervello a lottare contro di loro e a ricreare il vero, prevalgono di gran lunga sulla suggestione quasi ipnotica di un bel libro, che ha, come tutte le suggestioni, effetti molto brevi. Del resto, se la prima volta a Balbec avevo desiderato conoscere Albertine, non era forse stato perché mi era parsa rappresentativa di quelle fanciulle la cui vista mi aveva tante volte fermato nelle vie, per le strade, e la cui vita per me lei poteva riassumere. E adesso non era naturale che la stella agonizzante del mio amore, nel quale esse si erano condensate, si disperdesse nuovamente in quella polvere disseminata di nebulose? Mi sembravano tutte altrettante Albertine, già che l'immagine che mi portavo dentro me la faceva ritrovare dappertutto. E anzi, a una svolta del viale, una che risaliva in un'automobile me la ricordò a tal punto, aveva così esattamente la sua stessa corpulenza, che per un istante mi chiesi se non avessi visto proprio lei, se non mi avessero ingannato con il racconto della sua morte. La rivedevo all'angolo d'un viale, forse a Balbec, risalire in vettura nello stesso modo, lei, e allora aveva tanta fiducia nella vita. E l'atto di risalire in automobile di quella fanciulla io non lo constatavo solo con gli occhi, come l'apparenza superficiale che durante una passeggiata sfugge così prontamente. Divenuto un atto in qualche modo duraturo, esso mi sembrava distendersi anche nel passato, per quel lato che gli si era appena aggiunto e che s'appoggiava così voluttuosamente, così tristemente, contro il mio cuore. Ma già, la fanciulla era scomparsa. Poco più in là vidi un gruppo di tre fanciulle un po' più mature, forse giovani donne, il cui portamento elegante ed energico corrispondeva così bene a quanto m'aveva sedotto la prima volta che avevo visto Albertine e le sue amiche, che mi misi a seguire le tre nuove fanciulle passo su passo, e quando presero una vettura ne cercai disperatamente un'altra in tutte le direzioni. La trovai, ma troppo tardi. Non le ritrovai. Qualche giorno dopo, però, mentre rincasavo, vidi le tre fanciulle che avevo seguite al Bois uscire da sotto l'androne di casa nostra. Erano proprio, soprattutto le due brune, solo un po' più mature, di quelle fanciulle del bel mondo che tante volte, viste dalla mia finestra o incrociate per via, mi avevano fatto fare mille progetti, amare la vita, e che non m'era riuscito di conoscere. La bionda aveva un aspetto un po' più delicato, quasi sofferente, che mi piaceva meno. Eppure, fu a causa sua che non m'accontentai di osservarle per un istante, bensì messe radici con sguardi di quelli che, con la loro fissità che nulla può distrarre, la loro applicazione come a un problema, sembrano aver coscienza che si tratta d'andare ben al di là di quanto si vede. Le avrei lasciate sparire probabilmente come tante altre se, nel momento in cui mi passavano davanti, la bionda, forse perché le contemplavo con tanta attenzione, non m'avesse lanciato un primo sguardo furtivo, poi passata oltre voltando la testa verso di me un secondo, che mi infiammò definitivamente. Tuttavia, dato che lei smise d'occuparsi di me e ricominciò a conversare con le amiche, il mio ardore avrebbe finito con ogni probabilità per spegnersi se, a centuplicarlo, non fosse intervenuto quanto segue. Avendogli chiesto chi fossero, «Hanno chiesto della signora duchessa», mi disse il portinaio. «Credo che ce ne fosse una che la conosce e che le altre l'avessero solo accompagnata fino alla porta. Ecco il nome. Non so se l'ho scritto bene». E io lessi «Mademoiselle de Porcheville», che ristabilì facilmente in «de Porcheville», vale a dire all'incirca il nome, per quello che ricordavo, della fanciulla d'eccellente famiglia e vagamente imparentata con i Guermantes, di cui Robert m'aveva parlato per averla incontrata in una casa d'appuntamenti e con cui aveva avuto rapporti. Adesso capivo il significato del suo sguardo, perché si fosse voltata e staccata dalle sue compagne. Quante volte avevo pensato a lei, immaginandomela sulla base del nome che m'aveva detto Robert, ed ecco che ora l'avevo vista, diversa dalle sue amiche solo per quello sguardo dissimulato che creava fra me e lei un accesso segreto a parti della sua vita che alle amiche erano evidentemente nascoste, e me la faceva sembrare più accessibile, quasi mia a metà, più dolce di quanto non siano per solito le fanciulle dell'aristocrazia. Fra lei e me, nella sua mente, c'erano già in comune le ore che avremmo potuto passare insieme se fosse stata libera di darmi un appuntamento. Non era forse questo che aveva voluto esprimermi il suo sguardo con un'eloquenza chiara a me soltanto?